perduti di già. Quando scendo in te, anima pura non c'è. Il tempo si ferma là, grigio stupore darà. Città piena e vuota di già.